Siamo all'appuntamento con Visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. Mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza oppure in streaming sempre dal sito internet della radio. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. E allora cominciamo con un ospite che ritroviamo sulla nostra strada, perché ne abbiamo già parlato di questo suo lavoro. Alberto Antonio Dandolo, ci sei? Sì, ciao. Ciao, come va? Bene, grazie. Al lavoro. Al lavoro. Allora, con te per parlare nuovamente del tuo documentario su Cuba. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa. Per chi ci ascolta, di cosa si tratta, Alberto? Guarda, la vicenda è abbastanza complessa e cercherò di riassumerla in poche parole. Nel 1998 cinque cubani, conosciuti come The Cuban White o i Miami Five, erano stati arrestati a Miami con vari capi di accusazione, vari capi di accusa, tra cui cospirazione ai fini di commettere spionaggio. Dopo 15 anni di questo arresto arbitrario, di detenzione in vari carceri federali, cinque sono stati liberati con una dichiarazione, un amendum presidenziale da parte del presidente Obama, che li ha finalmente liberati. È diventato un caso insomma internazionale ed è scoppiato in tutte quante le agenzie di stampa, ne hanno parlato tantissimo negli Stati Uniti e anche in Italia, e da alcune settimane i cinque, dopo 15 anni, sono tornati a Cuba, quindi è una vittoria senza pari. Se non sbaglio, poi si è trattato di una sorta di scambio di prigionieri, perché in parallelo è stato rilasciato un americano da Cuba, vero? Sì, realmente erano già vari anni che si stava pensando di fare uno scambio, tra virgolette, di prigionieri, ma realmente, come avviene in tutte quante poi le decisioni politiche, c'è sempre di mezzo un uomo, quindi il presidente Obama, che è riuscito poi alla fine insieme al Raul Castro a trovare questo accordo, e Alan Gross, che è questo uomo a cui tu ti riferisci, è tornato anche lui negli Stati Uniti. Il fatto interessante è che questa notizia dei cinque ha aperto poi anche nuove altre trattative riguardo le relazioni tra Cuba e Stati Uniti, di cui poi The Cuban Wise parla e su cui c'entra poi la sua attenzione, cioè questo immeritato e anche, se vogliamo, ai giorni d'oggi completamente insensato blocco economico contro un'isola, se pensi che gli Stati Uniti hanno relazioni economiche con il Vietnam o la Cina, che sono paesi comunisti, e tu dici perché non contro Cuba, cioè perché non fare una vita normale, non avere una relazione economica con Cuba, perché lì è proprio il cortile degli Stati Uniti, insomma. Esattamente, quindi è una grande vittoria, uno perché il documentario parla del caso di cinque da un punto di vista umano, da un punto di vista delle donne, ossia delle mogli, madri e figlie dei cinque cubani, che per anni non hanno potuto mantenere una relazione con i propri cari. In alcuni casi addirittura non si sono proprio mai potuti neanche incontrare, perché gli Stati Uniti negavano il visto a queste donne. Quindi il documentario cerca di raccontare nell'intimità delle case di queste protagoniste qual è il segreto per mantenere poi una storia d'amore che duri con queste circostanze per tanti anni. Sì, sì. È un finale bellissimo, aspettato, anche se non sapevamo quando, perché con un impegno politico e culturale da parte di vari comitati internazionali che hanno sostenuto la liberazione dei cinque, tra cui premi Nobel della pace, tra cui Noam Chomsky, tra cui il nostro presidente, scusami, no, adesso mi confondo con tutti quanti i nomi, ma ce ne sono tantissimi. In Italia abbiamo fatto anche noi la nostra parte, l'Associazione Italia-Cuba, l'Università di Roma 3, l'ambasciata cubana che ci ha sostenuto e l'Associazione Culturale Minesis. Insomma, siamo riusciti a liberare questi cinque cubani. Senti, grossa sintesi, volevo chiederti che impressione hai rispetto anche alla tua esperienza relativa non solo al documentario, su questo cambiamento dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Guarda, interessantissimo. Io non so ancora che cosa dirti, perché le parole valgono poco, bisogna vedere i fatti, e i fatti significa aprire una... dare la possibilità intanto ai cubani che non sono residenti a Cuba di poter inviare del denaro, cioè fare le semplicissime azioni che noi facciamo quotidianamente, quello di andare in una banca e di ritirare dei soldi o di inviare un qualcosa ai nostri parenti che sono rimasti in un altro paese, e facilitare anche la visita del paese. Quindi negli anni passati, soprattutto nel 2012-2013, 98.000 americani e statunitensi sono andati a visitare Cuba illegalmente, partendo o da Messico o da Canada. Quindi io mi aspetto qualcosa, spero anche che non cambi del tutto un sistema che comunque negli anni si è consolidato. I cubani che io conosco, che posso vedere, sono stati fino adesso con una grande dignità, per quanti tantissimi problemi che l'isola ha, perché bisogna comunque dire le cose come stanno, certo, io mi aspetto un cambiamento progressivo, sicuramente lento, non da un giorno all'altro. Oh, Alberto, in chiusura, quali sono le possibilità di vedere il tuo documentario? Mi dicevi di una sua uscita, e quindi dacci i riferimenti. Sì, il documentario si può vedere in streaming, o si può scaricare dal sito di Vimeo, Vimeo On Demand, per una qualità buonissima. Sono anche molto contento di questo interesse da parte di Vimeo, che essendo insomma una società degli Stati Uniti che decide di prendere un film italiano che parla di Cuba, e insomma è una bella soddisfazione. Comunque, per avere un riferimento basta andare sul sito di thecubanwhite.com, e tra le primissime tra i primissimi post troviamo insomma l'on demand, come poter accedere e come poter vedere il film. Benissimo, io ti abbraccio e a risentirci alla prossima. Ti ringrazio, un saluto. Ciao, ciao. Alberto, ciao. Ciao. Alberto Antonio Dandolo, regista del documentario The Cuban Wives. In collegamento con Nicola Maccanico della Warner Bros. Italia per parlare del film American Sniper, uscito in sala lo scorso 1 gennaio. Nicola, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, io intanto comincerei per chi ci ascolta, con dare alcuni elementi di trama per orientarsi. Beh sì, insomma, American Sniper, il meraviglioso film di Clint Eastwood che racconta la storia vera di un soldato americano che è passato alla storia per essere stato il cecchino più letale dell'esercito degli Stati Uniti, nel senso che è stato un eroe di guerra, ma che nel film viene rappresentato in quanto uomo, e quindi vengono messe in evidenza le grandi contraddizioni che esistono nella guerra. Come in guerra forse nessuno ha ragione e nessuno ha torto, ma soprattutto gli uomini che si trovano a vivere queste esperienze poi, quando tornano a casa, si devono confrontare con le problematiche della famiglia e con il fatto che sono cambiati. Un'uscita in sala che sta andando molto forte per uno di quei registi che possiamo definire di una solida esperienza tra i pochi rimasti in circolazione. L'Italia è sempre un mercato che premia i film di qualità allargata e soprattutto i grandi autori. Sicuramente Clint Eastwood è il più grande di tutti, ma continua a sorprenderci, perché questo American Sniper batterà tutti i record della storia cinematografica di Clint Eastwood in Italia e si affermerà come il suo incasso più importante. Insomma, la sua veneranda età non era per nulla scontato, ma il film è partito fortissimo, piace molto, è già superato gli 8 milioni e, insomma, e continuerà a camminare. Quindi devo dire che è anche bello che un film così faccia così un incasso così importante, perché è anche un film in grado di far pensare, un film profondo, e quindi la rappresentazione di come il cinema funzioni sia quando si propone in maniera leggera, ma può funzionare anche quando trasferisce al pubblico dei temi più articolati. Deve saperlo fare, e Clint Eastwood in questo è il maestro. Anche perché tutta la parte in Iraq la affronta, insomma, buona parte del film è di guerra, c'è poco da fare. Come ti ho detto, sì, la storia di un uomo che va in guerra e che poi torna a casa, che di lavoro fa il soldato, vive in una battaglia nella quale crede, ma poi affronta tutta una serie di problematiche. Quindi è un film che parla della guerra più che un film di guerra. Sì. La guerra, ecco, uno degli elementi, io poi avendo perso l'anteprima stampa l'ho recuperato proprio ieri sera, alcune considerazioni volevo farle magari insieme a te rispetto proprio allo stile Clint Eastwood. Allora, intanto uno degli elementi che emerge sicuramente è che la guerra uccide dentro anche chi sopravvive al conflitto. Sì, nel senso, appunto, come ci siamo detti all'inizio, quello che emerge è che un soldato, per quanto valoroso, per quanto eroico come il protagonista di American Sniper, inevitabilmente in un contesto come quello della guerra deve lacerarsi la propria psicologia, e inevitabilmente trova delle difficoltà dopo aver avuto quelle aggressioni di adrenalina, dopo aver vissuto così stretto contatto con la morte, a tornare in un mondo normale. E quindi anche questa, secondo me, è la lezione più importante di American Sniper: la capacità di rappresentare un eroe nelle sue capacità, ma anche nelle sue debolezze, nelle sue difficoltà. Per questo dico che alla fine Eastwood non prende una posizione. Eastwood rappresenta che, al di là di chi ha ragione o torto ex ante, quando si è sul campo di battaglia si perde tutti. Sì. Ecco, un altro elemento, per esempio, che emerge nel rapporto soprattutto con la moglie e poi la famiglia, è questa sorta di schizofrenia, perché quello che succede nelle guerre moderne con le missioni all'estero è che si sta in un campo di battaglia, mentre nel proprio paese, poi, dove ci sono i propri affetti, tutto questo invece la vita prosegue normale, non ci sono echi di invece della morte che si è affrontata, insomma, una sorta di schizofrenia. La vera novità è che ci si può parlare, no? E questa c'è una scena meravigliosa. Sì, anche durante le sparatorie. Perché è sempre stato anche così nel genere umano, sì, no? A distanza potevano succedere cose molto diverse. La differenza è che adesso ti puoi parlare anche essendo a grande distanza. E quindi c'è quella scena madre del film nel quale lui rischia la vita sul campo di battaglia e chiama e parla con la moglie, che è in una città ed in un contesto a noi molto più vicino e comune. Quindi Poi lui è in uno dei corpi d'élite dell'esercito e scivola in quel girone infernale per cui si uccide, si rischia di essere uccisi, e il proprio corpo, i propri commilitoni diventano anche più importanti della famiglia. Lui, anche quando torna nel proprio paese, perché poi affronta 4 diverse missioni in Iraq, e con la testa non ci sta. La difficoltà, c'è la difficoltà di vivere in un videogioco, ma drammaticamente reale, sì, come il campo di battaglia, e tornare in una vita normale. Quindi, diciamo, questa distonia inevitabile Eastwood la rappresenta in maniera profonda, senza, diciamo, sprecare energie in sentimentalismi inutili, mandando in profondità nell'animo del soldato, ed è questa, secondo me, la lezione più importante, la grande forza del film. Sì, e anche legato comunque alla cronaca, alla storia vera a cui si ispira, è l'alta, secondo me, valenza simbolica di un cosiddetto eroe di guerra che per un atroce scherzo del destino viene ucciso proprio da un reduce. Esattamente, ma questa è purtroppo la drammatica cronaca della vita di Chris Kyle e del fatto che, per un paradosso assurdo, lui, una volta ritrovato l'equilibrio, ha cercato di aiutare delle persone che affrontavano le battaglie che stava affrontando lui, ma purtroppo uno di questi alla fine ha perso la testa e gli ha tolto la vita. Anche perché quello dei reduci è un problema grosso negli Stati Uniti, e non sempre viene messo in evidenza con la giusta serietà, però insomma è un problema serio per le tante guerre e conflitti esterni che il paese affronta. Credo che in tutti i paesi dove ci siano soldati che combattono guerre ci sia un problema legato ai reduci, quindi questo più che una caratteristica americana, credo sia una caratteristica di tutti i paesi che hanno importanti eserciti e che cercano di utilizzarli, speriamo, nella maniera migliore in giro per il mondo. E un altro aspetto che mi ha colpito è la freddezza formale, quasi un distacco stilistico per quanto riguarda da parte di Clint Eastwood nel ritrarre quelli che sono i rituali militari, dall'addestramento alla battaglia, ai funerali. Eastwood è un regista e vuole raccontare una storia vera e non vuole appunto prendere posizione, sì, né trasferire il senso di una sua personale opinione. Lui, sì, è un meraviglioso regista che sa raccontare le storie come nessun altro e lascia al pubblico la possibilità di pensare e di farsi la propria opinione. Per farlo nella maniera più alta, anche se viviamo in un'epoca in cui questo non è comune, ma dobbiamo ricordarci che per farlo nella maniera più alta, sia quando si dirige un film che quando si scrive, bisogna cercare di essere oggettivi e di non prendere una posizione per non condizionare. Bene, io ti ringrazio Nicola, un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie e buon anno a tutti. Ciao, auguri. Grazie. Nicola Maccanico della Warner Bros. Italia per American Sniper, uscito in sala lo scorso 1° gennaio per la regia di Clint Eastwood. Con noi Antonia Dinolfi di Videa sul film The Imitation Game, uscito in sala lo scorso 1° gennaio. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per l'invito. The Imitation Game, Tim Burton alla regia, un buon film. Per chi ci ascolta, di cosa si parla? Allora, ti correggo, non è Tim Burton alla regia di Scusa, Big vero, Guys. Perché qui ho davanti agli occhi anche l'altro film Big Guys di cui dobbiamo parlare a breve, insomma, The Imitation Game, okay, Alan Turing, okay, insomma, esatto, quella che è considerata la nascita del computer per sì, poi come lo conosciamo. Esattamente, e il film è una biografia tra il biopic e il romanzato di, come dicevi tu, di Alan Turing, questo genio assoluto, quello che ha dato in qualche modo inizio ai moderni computer. Ma al di là di questo, insomma, il film è parte della sua vita dall'inizio, da lui bambino in Inghilterra anni 20 fino agli anni 40, dove lui verrà soldato insieme a un altro gruppo di geniali, insomma, decodificatori, e nell'obiettivo di decodificare il codice Enigma, che realmente poi accadde, e attraverso cui, diciamo, la guerra ha avuto uno stop addirittura di 2 anni rispetto poi alla fine naturale, fino poi alla fine infausta di quest'uomo che era stato accusato negli anni 50 appunto di omosessualità e quindi spinto alla castrazione chimica e al suo suicidio, insomma. Sì, il film tra l'altro si occupa della prima parte della sua vita, la seconda l'abbiamo portata anche qui in radio sotto forma di spettacolo teatrale. Sì. Tra l'altro, ecco, dicevi del suicidio, sì, lui si uccise con una mela avvelenata di arsenico sì, e pare, insomma, che il simbolo di una delle più famose case faccia, sì, omaggio proprio a questo episodio. Sì, guarda, questo in realtà c'è e in verità non si sa bene se sia leggenda o altro. Comunque c'è, credo che non sia totalmente, come dire, decontestualizzante il vederne un richiamo rispetto alla parte finale, certo. Esatto. Senti, come siete arrivati a questo film e come avete poi scelto la distribuzione? Dunque, noi siamo arrivati a questo film sulla sceneggiatura, nel senso che lo abbiamo comprato da Film Nation, che era appunto la casa che vendeva il film in America, sulla sceneggiatura, perché diciamo che, come dire, è sempre meglio quando possibile battere i concorrenti comprando sulla sceneggiatura. E ci era piaciuta moltissimo, devo dire, da subito, eravamo tutti molto, insomma, in idea molto favorevoli all'acquisto di questo film. Per quanto riguarda la distribuzione, insomma, Videa, forse lo sai, è una società di distribuzione di cinema che ha pochi titoli durante l'anno, insomma 8-10, però di una qualità cosiddetta trasversale, cioè dei film che per argomento, per caso, per regia, in qualche modo, come dire, insomma, diciamo, non sono proprio una qualità super super stretta, però sono qualità ma di un largo pubblico. E Imitation Game, come è stato l'anno scorso The Butler, in qualche modo hanno questi elementi. E sul, se ti interessa sapere perché lo abbiamo posizionato il 1° gennaio, è un po' quello che abbiamo fatto lo scorso anno con The Butler, dove, come dire, l'offerta natalizia l'abbiamo prolungata a gennaio, l'anno scorso ci ha detto bene e quest'anno ad oggi, insomma, altrettanto. Sulla figura di Alan Turing, questo punto, Antonio, chiedo un tuo parere personale: quali sono gli elementi che più ti hanno affascinato? Allora, io devo essere onesto, nel senso che non avevo mai, prima di lavorare su questo film, approfondito la figura reale di Turing. Sapevo che c'era dietro un grosso senso di vergogna, insomma, dell'umanità intera rispetto a questo genio assoluto. La cosa che forse mi ha colpito molto, anche attraverso l'interpretazione dell'attore, che mi preme dire è straordinaria, io credo l'assoluto autismo che viene fuori da certi suoi tic, da certe sue particolarità, e contrapposto poi invece ad un candore che in alcuni punti del film viene fuori. Ecco, questa frammistione, questo contrasto di elementi mi hanno reso la figura di Turing molto molto affascinante. Anche perché poi il film mostra per flashback e per alcuni tratti il suo retroterra e il perché poi ha sviluppato determinate caratteristiche caratteriali. Direi assolutamente sì. Diciamo che, per la verità, noi partiamo attraverso i flashback già con un Turing adolescente, dove già alcuni tratti caratteri ci sono, per cui, come dire, non c'è una spiegazione, nel film non si racconta la genesi, no, di alcune dinamiche, le si trovano in lui bambino in qualche modo. E poi tutto questo ovviamente verrà sviluppato e raccontato poi nella sua fase adulta. Uno dei punti anche più delicati, più interessanti del film è anche il suo rapporto con una donna Joan Clark. Che si sviluppa per percorsi tutti suoi e del tutto originali. Ma proprio, diciamo, per ribadire quello che ti dicevo, cioè il suo totale autismo, che è anche emotivo, contrapposto poi al candore, diciamo che il rapporto che lega Turing a Joan Clark, che nel film è personificata dalla bravissima Keira Knightley, è assurdo, nel senso che è un rapporto che non ha delle implicazioni, come dire, da amanti, per cui non c'è tutta l'implicazione proprio amorosa. È un incontro ed un coinvolgimento di cervelli, di prima proprio grandezza, e a entrambi va bene, tant'è che lui chiede a lei di sposarla e per salvarla poi, e questo lo vedranno, insomma, le persone che andranno a vedere il film, in qualche modo la allontana da sé, perché lui non ha mai mistificato il fatto di non essere gay, come dire, correndo il rischio in quegli anni, essendo contro la legge dell'essere gay, lui lo ammette in qualche modo e lei poi glielo dice. Però la figura di Joan Clark è assolutamente straordinaria, soprattutto poi in quegli anni, un cervello, una donna già strano, no, per quell'epoca, che riesce in un mondo di uomini, e lo dice nel film, ad imporsi, sì, e ad imporre la propria logica, la propria intelligenza. Senti Antonio, il titolo di Imitation Game? Sì, è il titolo originale, fa riferimento a, diciamo, al metodo, se vuoi, del proprio di Turing, cioè l'intelligenza artificiale che in qualche modo imita e ha le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi dell'intelligenza umana. E ci piaceva in qualche modo tenerlo così in originale, perché abbiamo tentato di trovare una soluzione italiana, tipo l'enigma di un genio, eccetera. Poi alla fine forse nessun altro titolo dava la stessa forza del titolo originale. Bene, allora ricordiamolo, The Imitation Game, ancora in sala, è uscito lo scorso 1 gennaio. Antonio, un abbraccio e a risentirci per le prossime. Grazie, andate al cinema a vederlo perché è un film meraviglioso, vi commuoverete, vi divertirete, insomma vedrete del grande cinema. Auguri Antonio. Auguri a voi, ciao. Grazie. Stefano Massenzi di Lucky Red per parlare del film Big Eyes, uscito anche questo in sala lo scorso 1 gennaio. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, buon pomeriggio. Allora, per chi ci sta ascoltando, raccontiamo in breve la storia che rappresenta questo film. Big Eyes è una storia vera, molto interessante, molto affascinante, di questa pittrice Margaret Keane, che il cui nome magari non ricorda molto, però chiunque veda le sue opere se la ricorderà senz'altro. Faceva quei bimbi con gli occhi tristi e molto grandi, e divenne di grande successo negli anni 50, artista di massa. Ebbe una storia molto curiosa perché dipingeva questi quadri e si scoprì molti anni dopo che li firmava il marito mentre li dipingeva la moglie. E quindi il tema del film è, da un lato, il rapporto marito-moglie, uomo-donna, negli Stati Uniti degli anni 50, il grande boom, e degli anni 60 poi. E poi altro tema molto interessante è questo del se vale di più l'autore o chi vende, no? Se vale di più il marketing. Sì, quindi sì, sono temi molto affascinanti, trattati da Tim Burton, che ci ha abituato a un cinema molto diverso. Sì, sì. Negli anni, e che torna un pochino, non so se ricordate senz'altro quel film magnifico che era Ed Wood. Sì, sì. Altro film su un personaggio, no? Cinematografico. Strano, cinematografico, il peggior regista di tutti i tempi. Sì, in questo caso è per alcuni la peggiore pittrice di tutti i tempi. C'è un magnifico cartello all'inizio del film che dice di Andy Warhol, una frase di Andy Warhol che dice: se piaceva così tanta gente, forse erano belli, no? Sì, sì, è quella alla fine il sunto. Senti Stefano, dicevi artista di massa perché a memoria, e anche perché poi di conseguenza all'informazione e alla globalizzazione del sapere, si tratta forse di una delle più grandi truffe artistiche che a memoria, insomma. Sì, io più che truffa artistica direi, da un lato, massificazione dell'arte, nel sì, senso che oggi siamo abituati, no, al merchandising artistico, no, cravatte e portaceneri, segnalibri, libri, libretti, qualsiasi cosa. Fu la prima ancora di Andy Warhol, fu il primo, cioè il marito. Fu il primo, come dice un passaggio del film, a fare i poster dei quadri e poi a fare le cartoline dei poster dei quadri. Quindi questo è una massificazione, perché ognuno poteva avere un Kane, come se fosse, no, ognuno poteva avere un Michelangelo, in quel caso un Kane, sul muro di casa propria, nella propria cucina. E divennero molto molto ricchi, quindi poi in realtà lei ha sempre difeso il marito, perché dicendo da un lato che non avrebbe potuto raggiungere il successo, la fama e anche la ricchezza senza di lui, perché lui è stato, no, il motore di vendita di tutto questo, e l'intuizione di quest'uomo di poter vendere queste opere alle masse, perché proprio cioè, soddisfaceva un gusto popolare. Diciamo che è stato un po' il suo agente ante litteram, che però si è preso proprio tutti i meriti. Anche la paternità delle opere, diciamo, esagerato un pochino. Sì. Senti, due sono gli elementi, dicevi, ecco, dell'artista di massa. E, durante gli anni 60 c'è stato proprio questo passaggio alla fruizione di massa dell'arte, e due sono gli elementi fondamentali in questa storia, in questa vicenda e poi più in generale. Uno lo menzionavi tu, l'invenzione proprio del poster e delle stampe delle opere, dall'altra la fruizione, l'utilizzo della televisione come mezzo da cui ottenere popolarità. Certo. Infatti, cioè, sono la grande rivoluzione, in questo caso della televisione poco c'entra, però anche la diffusione, per esempio, a un maggior su una popolazione più ampia della stampa, perché poi loro sono diventati famosi, sì, anche grazie, sì, alla stampa. Attenzione. Però lui partecipava a questi dibattiti, quindi, televisivi e questi anche incontri. Sì, sono diventati un po' famosi in un periodo nel quale diventare famosi era magari anche più semplice. Sì, sicuramente. Con, tra l'altro, l'establishment artistico, che ricordiamoci erano i tempi di Pollock, erano i tempi di Rothko, erano i tempi di un'arte che è all'estremo dell'arte di Margaret Keane, quindi che non è... E quindi hanno risposto a una domanda popolare, certo. perché l'establishment chiaramente era sintonizzato sulle novità, come spesso è, no? Perché poi nel cinema un po' è la stessa cosa, nel senso che spesso ci si sorprende per i grandi successi di film popolari, perché poi cioè, i grandi numeri si fanno i film popolari. Stefano, ecco, dicevi un Tim Burton diverso da come siamo abituati, ecco. Ti chiedo a questo punto un tuo parere rispetto a quelle che sono le caratteristiche che ritroviamo della sua firma e invece le novità del suo tratto. Guarda, dal punto di vista del tratto ci sono è un film più classico, un film assolutamente più classico, che ricorda Ed Wood, quindi diciamo che dimostra di saper anche gestire un tipo diverso di cinema, che non è il grande cinema di grande budget e di grande fantasia, no? Con grande utilizzo di effetti speciali, personaggi strani, costumi, eccetera, eccetera. Rimane tanto colore, nel senso, un film molto colorato, un film che ha una luminosità, se volete, molto pop. Molto pop, sì, esattamente, cioè proprio di quegli anni, ma anche di quasi a voler fare da contrappunto alla tristezza dei quadri, perché è una giornata di sole dall'inizio alla fine. Ci sono chiaramente dei tocchi molto molto molto carini di Tim Burton, ovviamente, senza svelare nulla, Big Eyes la dice tutta, grandi occhi in vari punti del film, e poi in realtà cioè sorprende fino a un certo punto, sì, se uno si aspetta, no, Frankie Winnie o altre cose che lui ha fatto, chiaramente è diverso, però parla di un personaggio e spesso c'è nella tematica di Tim Burton, c'è spessissimo questi personaggi complicati, difficili, perdenti, no, diciamo che hanno la vita un po' più complicata. Come sta andando, Stefano? Sta andando molto bene, noi siamo molto contenti. È evidente che sta andando molto bene nella sua dimensione, però ha avuto un'ottima apertura, è fuori da una settimana, ha già attratto 250.000 spettatori, insomma sono bei numeri, e per darvi un parametro, Ed Wood ne fece 100.000. Sì. Stefano, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci alle prossime. A prestissimo. ciao. Stefano Massenzi di Lucky Red sul film Big Eyes, uscito in sala lo scorso 1 gennaio. Oh, abbiamo in collegamento Maurizio Porro, ben ritrovato Maurizio. Sì, salve, ciao, buongiorno a tutti. Allora, come ti dicevo prima fuori onda quando ci siamo contattati, la scorsa puntata sono stati con noi Alberto Crespi, Maurizio Di Rienzo, Nicola Falcinella, Fabio Ferzetti, Giorgio Cosetti, Emanuela Martini, Paolo Mereghetti, Anna Maria Pasetti, Federico Pontigia, Valerio San Marco, e abbiamo fatto questo gioco che ogni fine anno ci caratterizza, con le cinquine tra i film usciti in sala, quelli che abbiamo preferiti, con la possibilità anche di menzionare degli italiani se non sono inseriti nella cinquina. E a questo punto non è proibito, certo. Non è proibito. Ti chiedo intanto, come prima cosa, un tuo bilancio di questa stagione. Ah, devo dire che soprattutto la seconda parte, dopo Venezia, diciamo, ha riservato delle sorprese abbastanza ghiotte, anche abbastanza inedite. Insomma, un film come Boyhood, a parte il fatto di essere bello con le virgolette, è anche un film che segna una tappa proprio e una rivoluzione nel modo di far cinema, nel modo di usare lo strumento, nel modo di contrapporci fra la verità, la finzione, il tempo, eccetera eccetera. Quindi questo qui sicuramente è un film che in qualche modo fa epoca, ed è anche un bel film, ma quasi quasi passa in secondo ordine la bellezza. Mm-hmm. E quindi sicuramente io lo metto fra le sorprese dell'anno. E poi c'è stato il film di Olmi, che in genere non ha avuto grandi riscontri, neanche, soprattutto non di pubblico, ma che invece in mezzo alla retorica soffocante che ha accompagnato i festeggiamenti, anche qui con tante virgolette, dell'anniversario della guerra mondiale, il film di Olmi così è consanguineo, è costante, è fedele alle idee di questo regista, ovviamente contro la guerra, ma soprattutto a un clima così intimista, rispettoso dei silenzi, delle pause, delle cose che in genere oggi il cinema ha completamente dimenticato. Mm-hmm. Per cui secondo me, tornando ai Prati, perché parliamo di quello, sì, è un film molto coraggioso, molto molto unico, è una specie di radiodramma con parole, senza nulla togliere alla potenza visiva, ma lo dico per intendere un po' anche il tipo di operazione che ha fatto, e quindi va messo nelle sorprese di questa seconda parte di stagione. Poi a me piace il cinema così europeo, quello classico, per cui Ida, film polacco, Ida, l'ho trovato una bellissimo, e soprattutto una cosa come se venisse ormai da un altro mondo, da un altro tempo, perché cinema così ovviamente non si fa più, i giovani non l'hanno mai visto. Devo dire che hanno subito uno shock positivo, perché in genere è piaciuto, è andato anche al di là delle aspettative, per cui è stata una stagione a mio parere abbastanza varia. Il film turco Winter Sleep, Il regno d'inverno, è un film bellissimo, anche quello è un film che ha molta attinenza per esempio con la scrittura teatrale, che ricorda molto Chekhov, e io che sono un po' maniaco di questa attinenza, di questo doppio confine fra cinema e teatro, devo dire che ammiro moltissimo le opere che si pongono così a metà del guado, e oggi sono moltissime queste opere, devono conoscere alcuni film come Berman di Iñárritu e quello di Bogdanovic, che sono ampiamente appunto sistemati e codificati, e hanno la loro linfa vitale proprio, la prendono dal teatro, dalla polvere di palcoscenico. Senti, volevo chiederti, io tra i miei cinque ci sono due film che sono stato l'unico a candidare, però volevo chiederti su uno, ad esempio, il tuo parere su Dallas Buyers Club. Sì, mi è piaciuto, non lo metterei forse fra i candidati facendo il bilancio di un anno intero. Però mi è piaciuto, ha un pochino di vizio melò, ma insomma la causa è talmente buona che devo dire che si perdona volentieri, quindi se c'è da dire sì o no, è chiaro che sono per il sì. Cioè, al di là poi della bravura di lui, quelle cose lì ormai, ormai ovvie. Sì. E l'altro cos'era? No, l'altro era Lei, di Spike Jonze. Her. Sì, sì. Sì, no, no, ho capito. No, anche quello è un film molto interessante. È uno di quei film in cui il tema vince anche sulla sua realizzazione, perché se tu lo racconti, appunto, ti prende comunque al solo raccontare il soggetto certo. E a tutto quello che questo soggetto comporta come prima, dopo, durante, poi, eccetera. Molto, molto, molto attuale, molto, molto interessante. Poi anche un pochino, se devo proprio dire la verità, un pochino orizzontale, un pochino piatto nello svolgimento, ecco, forse ci sarebbe voluto un regista un pochino più geniale. Comunque è un'annata in cui non sono mancate le sorprese, ma a volte è mancato un po' il pubblico, ma in quello ci siamo quasi abituati, insomma. Ecco, anche questo Natale non è che sia andato benissimo, bisogna trasegnarsi e considerare il cinema non è più un bene primario per gli italiani e non solo per gli italiani. Ecco, proprio a partire dal pubblico, Maurizio, rispetto allo stato di salute della nostra cinematografia e le firme proprio italiane, cosa ne pensi? Ma io credo che sia una tendenza suicida il fatto di continuare a fare delle brutte commedie, dei telefonini bianchi, uguali a se stesse, in modo che la gente non sappia, con sempre con gli stessi attori di provenienza più o meno televisiva, e veramente si confondono, anche per uno che lo fa di mestiere, si confondono i titoli perché si somigliano, perché sono sempre lo stesso gioco, è sempre la stessa partita, insomma, quindi ben vengano i soliti noti, diciamo, che evitano questo terreno minato della commediola carina e simpatica che ha veramente indirizzato a senso unico il giovane cinema italiano, che tra l'altro ha dei talenti, perché i talenti sono evidenti che ci sono, però sono tutti obbligati a stare a certe regole che poi neanche più il pubblico accetta, perché queste commediole carine e simpatiche, gli scambi di persone, il finto permissivismo, eccetera eccetera, non sono andate bene. Semmai bisognerebbe pensare a quanto è andato bene il film di Martone, Il giovane favoloso, che io metterei anche fra i miei preferiti, perché è un film bello, coraggioso, con una prima parte straordinaria e un attore germano che mai si prenota per essere un grande protagonista. Insomma, non l'abbiamo scoperto adesso, ma voglio dire, ha raggiunto uno così, con questo personaggio di Leopardi, fuori così dalla retorica, fuori dall'essere scolastico, ha raggiunto un grado di maturazione abbastanza straordinaria, per cui Martone sì, anche perché, ripeto, il concetto del teatro, il concetto dei terreni confinanti, e quindi invece cambiamo questa cosa del carino e simpatico, dei film ammiccanti, dei playboy, dei ragazzi che non crescono, ormai queste cose insopportabili. Del resto anche il Cinepanettone ha fatto il suo tempo, persino quello orrendo film natalizio di Che segno sei, dove ci si aspettava comunque un pochino di adesione popolare, ne ha avuta veramente poca, che a mio parere è un segno di maturazione, insomma, del pubblico, perché siamo ai livelli veramente della diciamo della farsa. Senti, in chiusura invece, sulle politiche distributive. Quello è tutto da reinventare, non da inventare, da reinventare, perché i giovani autori che sono così grossomodo abbandonati a se stessi, perché ovviamente nessuno si prende la briga di andare a scovare a vedere i film dei giovani, devono inventarsi un modo di distribuzione che assomiglia molto a quello che era una volta il teatro, cioè andavano a bussare, invece del teatro vanno al cinema e vanno direttamente da un esercente più o meno sensibile a proporre il proprio film, per cui scavalcando, diciamo, l'anello di congiunzione che è la distribuzione, potrebbe anche essere un'idea, naturalmente non è generalizzabile, ma per i prodotti che a costo zero, che non hanno budget, eccetera eccetera, questo trovarsi autonomamente le proprie derive di pubblico, i propri luoghi, potrebbe anche essere uno sport culturale innovativo, positivo. A Milano c'è il famoso Mexico, che adesso tra l'altro si raddoppia con un altro locale, Palestrina, per cui insomma qualche luogo diverso c'è. Rimane il grande problema che invece, appunto, non ci sono fisicamente, non ci sono le sale, perché siamo ormai in ostaggio dei multipli, se tutti sanno che i multipli fanno solo un certo tipo di programmazione, è inutile prenderci in giro, insomma, per cui le sale sono occupate mano militare solo da alcuni film. Sì, sì. Bene, da Maurizio. Alcuni generi poi soprattutto. Io ti abbraccio, ancora buon anno e a risentirci per le prossime novità. Va bene, grazie, a presto, ciao, buon ciao, lavoro, ciao. Arrivederci. Il critico Maurizio Porro che ha detto la sua per quanto riguarda le cinquine dello scorso anno. Bene, è la volta di Roberto Silvestri, ben ritrovato Roberto. Ciao, come state? Bene, bene, auguri. Beh, insomma, quello che è successo. Vabbè. Auguri anche a voi. Grazie, sì sì, il riferimento è chiaro, insomma. Sì. Senti, allora, siamo come ogni anno, facciamo questo gioco delle cinquine, come ti dicevo, se nei cinque non c'è inserito un italiano, si può menzionare qualche titolo italiano. Abbiamo sentito già una decina di amici e colleghi e volevamo sapere intanto da te, come all'inizio, come facciamo con tutti, un po' un bilancio di questa stagione. Ma comunque, dal punto di vista degli incassi, malissimo dappertutto, no? Dagli Stati Uniti all'Italia. Dal punto di vista dei grandi film, mi è sembrata che è stata un'annata pazzescamente buona, perché non so, pensiamo a Jarmusch, Scorsese, Clint Eastwood, persino Nolan, gli Anderson, Cronenberg, Miyazaki, hanno tutti fatto dei film magnifici, no? Quindi è stata un'annata, addirittura Clint 2, anche se American Sniper è uscito il primo gennaio 2015, quindi sì. non va nella classifica. Non vale nella classifica. Quindi mi è sembrato, dunque, poi è strano, no? I film che hanno vinto a Cannes e a Venezia sembra che non siano stati neanche tanto poi amati a livello critico, perché né il film di Birge Silan né quello di Anderson svedese compaiono, no, tra i migliori film dell'anno, quindi è abbastanza difficile in questo momento trovarsi in una specie di mappa più sicura, no, dei valori cinematografici. I miei cinque sono, te li dico? Sì, e accompagna una breve nota per ciascuno. Sì, beh, prima dico quali sono. Okay. 1 Boyhood, 2 Pride, 3 Addio Langage, 4 Guardians of the Galaxy e 5 Scemo più Scemo 2. Dunque, credo che sia banale, quasi tutti avranno detto questi titoli. Boyhood è primissimo, staccato da tutti. Sì, purtroppo Timbuktu, che era un film invece che, dati i fatti di Parigi, poteva essere quello più importante di tutti, non è ancora uscito in Italia, è uscito in Francia, è un film bellissimo che consiglio nel 2005, lo ha diretto un mauritano che si chiama Abderrahman Sissako, e insomma è molto acuto sui meccanismi veramente profondi, no, di ciò che sta in questo momento dividendo, come avviene ogni tanto, il mondo del fondamentalismo islamico, del califfato contro tutti gli altri arabi, che sono circa il 99%. Dunque, allora, Boyhood. Roberto? Mi senti? Ti sento male. Mi senti male? Sì. Allora mi avvicino. Adesso mi senti? Adesso meglio, sì. Hai sentito la cosa di Timbuktu? No, adesso continui ad andare e venire, però, come ricezione. Aspetta un attimo, Sì. Mi sposto e forse va meglio. Che dici? Ecco, adesso va sì. Meglio? Adesso sì. Va sì. Meglio? Sì, sì, sì, sì, sì. Dunque, di Timbuktu avete capito il discorso o non lo rifaccio? Rifallo perché no, non... Però, no, mi sa che mi devi richiamare, No, adesso ti sento. Allora, dicevo, di Timbuktu è un film importante perché è quello che un po' capisce meglio quali sono i problemi che in questo momento il mondo islamico... Ah sì, questo lo abbiamo sentito. È arrivato a Boyhood, è arrivato. Allora, Boyhood, Pride, Addio Langage, Guardian of the Galaxy, Scemo più Scemo 2, forse si possono raggruppare in uno stesso discorso, in effetti, perché la cosa che mi è sembrata più interessante, in particolare attraverso il film di Godard, Addio Langage, che un po' cerca di smontare questo mondo di immagini e di concetti da espertoni, da da persone che insomma capiscono quello che sta avvenendo nel mondo, invece non capiscono niente, come abbiamo visto un po' nelle situazioni di ieri in televisione. E quindi Godard ha un po' sempre questo compito di fare ecologia delle immagini, farci vedere delle immagini che non abbiamo mai visto, un modo di pensarle e quindi di pensare i concetti che non abbiamo mai pensato. Ecco, mi sembra che tocca molto bene il problema dei migliori cinque film, cioè quello dello scontro tra sceni e tronzi, grosso modo, no? Pensiamo a Price, no? Thatcher, la strozza contro centinaia di energumeni galleti fortissimi che vengono distrutti, no? Cioè, quindi trattati come scemi e riportati, dico, a uno stato preumano, lo stesso stato preumano nel quale si trovano i gay in qualche modo, no? Quindi un film magnifico, perché questa rappresentazione del minatore gallese come lesbian e come trans è pazzescamente moderna. E Boyhood in qualche modo racconta questo momento, lo racconta con 12 anni di fatica, devo dire, un film veramente si merita i soldi che Linklater ha guadagnato, perché è un lavoro, no, in cui gli attori sono diventati documentario e i ragazzi diventano attori, quindi è una specie di gioco mai visto. Ma grosso modo tocca il problema dell'adolescenza, cioè nel momento in cui uno deve stabilire, appunto, se sceglie una strada, la strada dell'opportunismo, del cinismo, della scemenza, cioè di una specie di ingenuità che invece va valorizzata. E Guardian of the Galaxy è scemo più scemo in questo caso, no? L'abbiamo visto, infantilizzazione finalmente retorica di Guerre Stellari, in modo era diventata poco a poco retorica, non lo era da nessuna parte naturalmente, ma è diventata una specie di nuovo poema imperialista. Invece Guardians of the Galaxy mette i puntini su lei e porta un po' al suo spirito giusto, quindi mi è sembrato un film di straordinario interesse. E quindi tutto l'anno viene riassunto da Scemo più Scemo 2, che in qualche modo dà a questa ingenuità un po' Jerry Lewisiana, no? La nobiltà di qualche cosa che è più profondo nella profondità. Quindi mi sembra che questi sono i cinque film più importanti. Senti, qualche menzione italiana? Gli italiani sono, uno è francese, Pasolini di Ferrara, Il giovane favoloso di Martone, Berlusconi, La trattativa e Le meraviglie. Questi mi sembrano i cinque film più belli. Anche qua ci troviamo davanti a due film, Pasolini e in pratica Il Leopardi di Martone, in cui due personaggi sono proprio staccati completamente dal contesto in cui vivono. Uno addirittura parla inglese nella versione che ho visto io, meravigliosamente inglese, e l'altro sembra il gobbo di Notre Dame. Quindi due personaggi che in qualche modo sono proprio mostri, no? Fuori dal contesto. Quindi anche qui mi sembra che si fa lo stesso tipo di lavoro sull'essere, diciamo, essere Occupy Wall Street, come ci spiega Scorsese nel Wolf o Wall Street. E così anche i film di Franco Maresco, di Sabina Guzzanti e di Alice Rohrwacher, che secondo me forse era quello che avrebbe, facciamo il discorso di che cosa piace agli americani, da portargli all'Oscar, che sarebbe stato forse il film più adatto in questo momento, con questo tipo di sensibilità critica, con il favore che anche il film ha avuto a Cannes effettivamente dalla stampa interessante americana. Forse Le meraviglie era quello più innovativo a livello di linguaggio. Senti, sulla distribuzione ma nessuno l'ha visto, quindi non vale. L'ultimo l'ha Diaz, dicevo, non l'ho visto. Senti, la distribuzione, Roberto? Come? Le politiche distributive? Stai parlando di politiche distributive? Sì, volevo avere la tua opinione su quest'annata. La manifestazione di ieri è andata così male, dimostra che ormai le circolazioni di immagini interessanti, belle, emozionanti in Italia circolano poco, e quindi c'è una situazione di distribuzione molto molto negativa, nel senso che appunto qui stiamo facendo Love Diaz non esce, The Lock of Silence di Oppenheimer esce male, se esce Return Tonight ma il volume di Lloyd Kaufman, un film strepitoso, non è uscito, c'è troppe cose. Food anche di Manuela Morghen non è uscito, è un film straordinario francese, ne dico solo alcuni, ma sì, altri che sì. Sono andati a Locarno sanno che c'è una massa sterminata di bellezza che viene ostruita da orrende cose che bloccano i film. ho visto ieri il film di Woody Allen, che trovo strepitoso anche nella logica degli scemi più scemi, e mi sembrava che fossi in una piccola sala dell'Eden di 40 posti, pienissima, mentre ci sono delle sciocchezze, no, in sale 1, 2, 3 che vengono troppo pompate. C'è un problema serio nella nostra cultura, della nostra così capacità di accedere alla bellezza o alla bruttezza strepitosa che c'è in giro. Invece vediamo tutte opere medie, moderatissime, un po' conformiste. Purtroppo la distribuzione, insomma, come la produzione, come la realizzazione di film, è sottoposta a un problema di rincretinimento, però questo non fertile del paese, agghiacciante. Roberto, io ti ringrazio, ti abbraccio, ancora buon anno. Ciao. E arrivederci e a risentirci presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ed ecco, noi lo ritroviamo, Steve Della Casa, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ciao. Allora, abbiamo appena sentito per questa seconda puntata delle Cinquine Maurizio Porro e Roberto Silvestri, adesso è la volta tua, poi ci sarà Giovanni Spagnoletti per questo gran finale. Mamma mia, che compagnia importante, sono commosso. Allora, io non ti voglio influenzare, non ti dico a che risultati parziali stiamo. E ma tanto è difficile di influenzarmi, comunque ho un'idea abbastanza chiara. Allora, nella cinquina io metterei dunque gli Scorsese, Wolf of Wall Street, sì, che mi sembra uno dei film più belli della scorsa stagione, e ci metterei Addio au Langage di Jean-Luc Godard, che è la vecchia zampata del grande leone, o la grande zampata del vecchio leone, a seconda di come volete definirlo. Poi ci metterei Berlusconi di Franco Maresco, ci metterei il film di Munzi, Anime Nere, presentato a Venezia con un Marco Leonardi veramente straordinario. E poi ci metterei un altro film italiano, il film di Virzì, Capitale Umano. Sì. Visto che si possono segnalare anche dei film italiani in più, forse una segnalazione, una menzione per i nostri ragazzi di Mano di Matteo la faccio volentieri. Ah. Senti Steve, chiedo a tutti, mi piacerebbe anche sapere un tuo bilancio del 2014 più in generale. Beh, insomma, è un anno di trasformazioni del pubblico, perché bisognerebbe poi una volta fare una indagine approfondita su quanti film si vedono al cinema, quanti si vedono su internet, come sono fatti gli incassi, se ha ancora senso parlare degli incassi come si parla tradizionalmente, e tutte queste cose qui, insomma, andrebbero un po' riviste, pensate, eccetera. È un anno in cui mi sembra che i mega film con mega effetti speciali vengono un po', cioè continuano ad andare bene, per carità, però abbiamo un po' stufato, ecco, sento sempre più giudizi meno contenti su queste trombonate tipo gli Hobbit, eccetera eccetera. Credo che nel noir si vedano le cose più interessanti sia in Italia sia all'estero, e poi per fortuna ci sono i vecchi maestri, Scorsese l'anno scorso, Clint Eastwood quest'anno, insomma, che ricordano a tutti, o Godard che ho citato, che ricordano a tutti che fare cinema è una questione anche di classi, di avere delle cose da raccontare. Dicevi del parallelo tra la sala e la rete, a questo punto sì. Ti chiedo anche a te sulle politiche distributive una tua opinione. Mi sembra che spesso siano, come si diceva quando dei comunisti, quando era morto Togliatti, dei gattini ciechi, cioè nel senso che a volte i distributori sembrano brancolare nel buio, non sono aiutati dal fatto che le televisioni hanno una politica assurda per cui non comprano i film delle piccole distribuzioni e le mettono in grossa difficoltà. Queste devono cercare dalla sala un ritorno che spesso la sala ormai non può più garantire, soprattutto per i piccoli film d'autore. Mm-hmm. Cioè ci vogliono delle diverse strategie, bisogna rendere forse il web un posto non di scarico selvaggio, ma un posto in cui si riconosce e si paga il giusto, non tanto, ma insomma il giusto per quanto riguarda soprattutto i film d'autore. Bisognerebbe forse agire su questi terreni perché ci sia un discorso futuro di distribuzione. Così com'è, io molti li conosco, quelli che fanno piccola distribuzione sono dei veri e propri eroi, cioè le televisioni li bastonano, le sale spesso gli smontano il film, loro continuano a importare film magari che escono sottotitolati, in tutti i giorni c'è Te lo malo per esempio, no? che sì, è uscito, sì. Insomma è un film molto interessante che va sostenuto, però mi dicevano proprio le televisioni per adesso non l'hanno comprato, è una cosa assurda. Bene caro, io ti ringrazio, un abbraccio e ancora auguri a voi. Ciao, a presto. Ciao ciao ciao ciao. Steve Della Casa dopo Roberto Silvestri e Maurizio Porro. Ben ritrovato Giovanni Spagnoletti. Buon anno. Auguri. 2015 su Supremo sarà, speriamo. Allora, tu sei la gran chiusura. Rappresenti la gran chiusura, sei il quindicesimo. Tra l'altro rivelerò un attimo un po' meglio in maniera più ordinata quali sono invece i miei, visto che li ho menzionati man mano che gli altri citavano i loro. Ti chiedo però subito un tuo parere sull'anno cinematografico 2014, Giovanni. Mi sembra stato un buon anno, ho visto diversi film, ho fatto anche fatica a ridurre a 5 il numero di quelli che secondo me sono più significativi, quindi insomma più che in altri momenti mi sono trovato, come dire, confortato da un risultato anche importante, credo. Credo che siano anche gli altri colleghi dovrebbero essere abbastanza d'accordo. Sì, con sì, me. Sì, è un'opinione diffusa. E rispetto invece alla distribuzione? La distribuzione dei film in Italia? Sì. Ma solita Italia, che dobbiamo dire? Diciamo che compaiono delle nuove sigle, alcune nuove sigle, quindi il cinema di qualità o d'autore o come adesso o come uno voglia chiamarlo, mi pare che ha ricevuto qualche piccolo spazietto in più. Di fatto adesso è delegato anche, come dire, un po' il cinema di nicchia, quel resto di cinema di nicchia che arriva sul mercato delle sale. I tuoi cinque, Giovanni? No, dico, temo che ormai sia una tendenza irreversibile, anche perché se non si risolve il problema internet, se non si risolve, come dire, un po' quella che è la chiave del futuro, già in altri paesi è avanzatissima, tipo Netflix negli Stati Uniti e compagnia bella, però il problema è che se la rete italiana non funziona, Netflix non investirà mai nel nostro paese e quindi la tendenza sarà schermi casalinghi sempre più grandi e schermi cinematografici un po' più piccoli, temo, nel futuro. Banale, ma è così. Ho capito. I tuoi cinque passo accompagnati da una sorta di spiegazione, via. Spiegazione più che altro, mi sono un po' anche confrontato con quello che ho visto che hanno votato i miei amici prima di me. Sì. Più sorprendente secondo me è in ogni caso Boyhood, proprio perché per il suo modo di produzione assolutamente, come dire, inconsueto, veramente anche poi contro le regole fondamentali della produzione americana, quindi un film veramente indipendente e veramente coraggioso. Beh, 10 voti su 15, considerato anche che io l'ho perso, quindi devo recuperarlo, insomma mi sembra un risultato strepitoso. Beh, insomma, un gran bel film, un gran bel film, non è andato benissimo, ma insomma è veramente un film sia bello che interessante. Sì. Se Scorsese non è troppo vecchio, perché mi sembrava già del secolo scorso, Scorsese, il The Wolf of Wall Street naturalmente, però diciamo così, l'ho visto molto citato, quindi lo metto anch'io, perché anche questo è un film d'eccezione, uno Scorsese non di primissima qualità, non lo metterei tra i 5 più Scorsese più riusciti secondo me, però è un film notevolmente, cioè, da viste anni luce. Continuando sull'America, devo dire che Gone Girl è un film che mi ha convinto, l'ho visto 2 volte, l'ho visto prima in originale, poi ho avuto la sventura di vederlo doppiato. Dici sventura proprio? Dici proprio sventura, sì. Doppiato. Anche se pur doppiato è sempre un bel film. Vabbè, poi c'è il mio amatissimo Wim Wenders con Il sale della terra, che secondo me è tornato a ottimi livelli. Italiani, io metterei 2 film che mi hanno colpito particolarmente, non è che sono particolarmente molto originale, ma insomma Anime Nere e Berlusconi, secondo me sono due film molto diversi, ma due opere molto interessanti. Se dovessi fare delle menzioni... Beh, però ne hai detti... Ah no, li hai detti 5, tutti e 5, è vero. No, no, hai detti 6. Boyhood, vabbè, ne ho detti 5 e mezzo, via. L'Italia ha bisogno di un aiutino in più. Via, va bene, va bene, dai. Senti, poi tra i documentari The Look of Silence è un capolavoro. Sì. Poi... se vuoi in maniera sparsa anche altri bei film, Mommy è un film fantastico, Ida è un altro film molto interessante, ma insomma diciamo che nel range di film che conciliano diciamo così narratività e qualità, quelli che ti ho detto secondo me sono degni di nota. Vedremo adesso nella votazione finale che cosa ne uscirà fuori. Sì, ti dico subito che i primi 3 a questo punto li abbiamo individuati, sono Boyhood, Anime Nere e The Wolf of Wall Street. Sicuramente c'è Mario Martone anche, Mario Martone e a questo punto anche Le Meraviglie. Quindi no, c'è anche Il sale della... Vabbè, è da vedere, perché devo vedere meglio. Controlla. Sì, perché anche Il sale della terra. Insomma, mi è piaciuto tanto Il sale della terra, devo dire, è un film... Mi sembra che il nostro sia tornato a fare del cinema di prima qualità. Si sta avviando verso dopo un periodo di calo profondo, mi pare che sia tornato un po'. Sia Pina che questo sono 2 documentari molto belli. Pina sembra anche il nuovo cinema. Il nuovo cinema, l'ex nuovo cinema tedesco, sia Herzog che Wenders, sì, ormai siano più dotati e più inventivi sull'aspetto della non fiction che non della fiction tradizionale. Allora, a questo punto tiro fuori anche i miei 5 e un paio di menzioni. American Hustle, Il sale della terra, Nebraska, Dallas Buyers Club, Lei, Her, e come menzioni Grand Budapest Hotel e The Wolf of Wall Street. Insomma, più o meno poi il range quelli sono, no? Più o meno. Io American Hustle anche un film che ho amato molto, quindi insomma. però è un film, diciamo così, molto, molto più sui dialoghi che non sul, sulla messa in scena, quindi l'ho dimenticato, ma non perché non sia un bel film. Sì, sì. No, poi sapendo della tua passione per la cinematografia americana e statunitense, insomma, te li ho detti proprio a te. E guarda, che per esempio sono. Volevo sapere a questo punto anche la tua, visto che sono stato l'unico a citare Dallas Buyers Club e Her, lei. Volevo sapere la tua su questi due, per esempio. Su quali due, scusa, non mi ricordo. Dallas Buyers Club. Ah sì, carino. Mi piace. Ok. E lei, Her, di Spike Jonze. Sì, quello mi piace di meno. Mi sembra di meno. Più radical chic. Senti, visto che ne abbiamo parlato fuori onda prima e con l'occasione. Ti dicevo anche che ne avrei parlato con la Warner Bros. Italia di American Sniper, Clint Eastwood, vista la tua passione e anche la considerazione che hai per Clint, volevo sapere cosa ne pensi. Un grande film, c'è niente da fare. Un grande film, sarà, come dicono alcuni, bello, come ho sentito ieri sera, bello ma reazionario, ma un film... A parte il fatto che non è reazionario per niente, perché non mi pare che questo eroe americano poi ne esca, come dire, a tutto tondo, e sì, quindi certo, insomma mi certo. sembra che, ma mi sembra un gran film, un film alla John Ford rifatto oggi, che ammirevole, quasi perfetto. Quasi perfetto. Sì, secondo me è quasi perfetto. Poi c'ha alcuni momenti veramente eccellenti. Sì, io l'ho visto ieri sera e quindi sì, perché l'avevo persa la proiezione. Ma l'hai visto doppiato? E l'ho vista doppiato, sì, sì. Ma c'era faccio un po' di pubblicità al Fiamma, fanno un po' di film, c'è anche Tim Burton, ma gente va a vedere i film in originale, sente le voci degli attori, che caspita. Sì, hai ragione, non è sento la vabbè le mie personali polemiche. Auguri Giovanni, auguri a tutti gli ascoltatori di radio Onda Russa. Tutti i visionari. E le visionarie. Senti Giovanni, ci sentiamo presto, tirami fuori qualche novità, fai qualcosa di strepitoso e io ti chiamo. Va bene. Provvederò. Ok, presto. Ciao Federico, ciao. Oh, finite le cinquine, finito questo gioco di cui metteremo poi online i risultati, torniamo a parlare di cinema fatto, di documentari, ne parliamo con il regista Marco Cassini per parlare della campagna di crowdfunding per il documentario Terremotati. Marco, intanto buon anno e poi benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. E ci tengo subito a dire che non è un documentario il nostro, ma un film di fiction vero e proprio. Ah, vedi, ecco, già una precisazione dovuta. Allora, raccontaci un po', allora, per in maniera più articolata di questo progetto. Certo. Allora, intanto ci tengo subito a salutare e a ringraziare Ilaria Battistella, Walter Cordopadri, Stefano Muroni e Samuele Coconi, che sono lo zoccolo duro del nostro gruppo. Stefano Muroni e Walter Cordopadri, insieme anche a Samuele Coconi, sono rispettivamente i due attori protagonisti e i cosceneggiatori insieme a me di questa storia, che parla della situazione delle fabbriche in Italia in questo momento, no? Sì. Di come è difficile andare avanti, arrivare a fine mese. Della difficoltà della generazione di oggi. Ilaria Battistella poi ha reso questo nostro sogno su carta una realtà grazie al contributo di Marietta Storti, che ci ha fatto la cortesia di finanziarci questo nostro piccolo film che sta venendo davvero bene. Oh, da dove nasce tutto? Nasce da un'idea di Muroni e di Samuele Coconi, ragazzi di Ferrara, due grandi teste due ragazzi che hanno vissuto il terremoto in modo drammatico e molto vicino, come d'altronde lo sono stato io con il terremoto dell'Aquila. Sono esperienze che ti segnano, che cambiano in qualche modo la tua vita e il tuo modo di vedere le cose, no? E allora ci siamo detti, perché non provare a realizzare qualcosa che parlasse del terremoto? Da prima si era parlato di un film che mischiasse la realtà della fiction con quella poi effettivamente documentaristica, ma poi in realtà il film ha preso tutta un'altra piega. Abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura, è venuto fuori un film di fiction vero e proprio. Ok. Quanti sono i personaggi coinvolti? Allora, ne sono diversi, molti ragazzi, ti dico, sono venuti gratuitamente a lavorare perché credevano tantissimo nella realizzazione di questo nostro film. Walter Cordopatri e Stefano Muroni sono i protagonisti, nonché i co-sceneggiatori insieme a me della stesura finale della sceneggiatura del film. Poi Rosario Petix, Piero Cardano, il grandissimo Giorgio Colangeli, che magari ammirare. Sì, okay. È un nostro amico, Giorgio Colangeli. Meraviglioso. abbiamo cercato di puntare sulla qualità assoluta. Il film risente di questa nostra scelta. È vero, avevamo pochi soldi, avevamo pochi mezzi, ma il nostro obiettivo era fare una cosa di altissima qualità, di altissima fattura. Pensiamo di esserci riusciti. Guarda, io il montaggio davanti a me sono estasiato, ti dico la verità. Sì, vai, continua. No, dico, la risposta poi finale ce la darà il pubblico, no? Certo. Dicevi delle fabbriche, delle difficoltà legate al lavoro, delle nuove generazioni. Ecco, qual è l'approccio che avete scelto rispetto a queste tematiche? Intanto io insieme ai ragazzi che hanno pensato con me questo film ci siamo detti: non piangiamoci addosso, sì. Cerchiamo di non prendere delle scelte superficiali, ecco, perché tante volte è semplice dire sì, la situazione in Italia è questa per colpa di questo, di quest'altro. Analizziamo la cosa da un punto di vista più ampio, cerchiamo di capire veramente a che punto della storia italiana stiamo noi come generazione. Siamo andati molto a fondo e abbiamo semplicemente raccontato la vita di tutti i giorni. Ci sono ragazzi che faticano ad arrivare a fine mese e magari per pagare la gita della scuola della figlia devono fare dei miracoli, anche se poi questi sono problemi che rimangono sempre dentro le mura di casa, no? Sì. Perché non sono cose che si vanno a dire in giro, però noi ragazzi, ma noi italiani in generale, credo lo sappiamo adesso, sappiamo che è un momento di difficoltà anche e soprattutto da un punto di vista economico, per non parlare poi della selezione del personale, del fatto che siamo che è una realtà complicata, però cerchiamo di rialzarci. Infatti questo film parla anche del rialzarsi, del guardare oltre, del dire: caspita, la situazione è complicata, però possiamo farcela, possiamo reagire anche se ci si mette un terremoto di mezzo. Senti, in fase di sceneggiatura avete fatto riferimento alla cronaca, interviste, a cosa? Esattamente, questo infatti approfitto della tua domanda per ringraziare nuovamente Walter Cordopatri, Samuele Govoni, Stefano Muroni e Ilaria Battistella, che mi hanno dato una mano santa per realizzare questa cosa. Siamo partiti da Samuele. Samuele aveva raccolto il materiale. Insieme a Stefano hanno carpito la situazione del terremoto in Emilia, di quello che ha lasciato, cioè una ferita nel mondo del lavoro prima che nelle situazioni personali, no? Sì. Dopodiché abbiamo iniziato a scrivere, a pensare ai personaggi, alle dinamiche che potevano avere all'interno del contesto. E poi siamo andati avanti ed è venuto fuori il film, fondamentalmente. Però il richiamo, diciamo, alla storia, a quello che è stato realmente il terremoto, c'è come. Senti, poi, ovviamente. Sì, vai. Sì. No, dico, realizzare un film di fiction ovviamente presuppone anche un minimo di inventiva anche da parte nostra, no? Che siamo artisti del cinema, ecco. Volevo chiederti la scelta di questa campagna di crowdfunding. sì, qui arriviamo al punto forte. Grazie alla piattaforma di Derev siamo in piena campagna di crowdfunding. È una campagna che ci darebbe la grandissima possibilità di effettuare il montaggio, il mixaggio del suono, lo sviluppo della colonna sonora in maniera ineccepibile, così come siamo riusciti a girare il film. Chiaramente avendo un intervento minimo di soldi siamo riusciti a partire, ora vorremmo finire anche nel migliore dei modi. E l'intervento, diciamo, delle persone che possono aiutarci e sostenerci, approfitto anche per ringraziare il Giffoni Innovation Hub che ci ha dato una grande mano, ha ascoltato la nostra storia, ci stanno aiutando tanto. Ecco, grazie a questa piattaforma le persone magari potranno dare una mano diretta a quello che è il nostro film. Questo, ciò che vogliamo tutti è realizzare una cosa bella, che possa essere emozionante tanto quanto quei film che poi ti ricordi per anni, non so se mi spiego. Sì. Quindi non abbiamo pensato a nient'altro che a questo, cioè alla qualità assoluta. Io ci sono delle scene che, per esempio, lo dico sempre pure ai ragazzi che collaborano con me, non ho potuto montare, ma per il bene del film magari, no? Sì. Perché ci sono delle cose che funzionano per lo spettatore in primis, per l'emozione dello spettatore. Cioè non vogliamo fare una cosa autoreferenziale o una cosa che si basa su cose che sono diverse dal discorso meritocratico e della qualità di un progetto, perché il cinema si fa così, secondo noi, non si fa in altri modi. Senti, che strade avete pensato di seguire dopo il finanziamento tramite crowdfunding? Allora, sicuramente proveremo le strade dei festival più importanti d'Italia, d'Europa, del mondo. Anche in questo avremo, spero, una grande mano da parte di Giffoni, sicuramente l'avremo. Poi cercheremo di trovare una distribuzione, come succede per i film che si fanno come li stiamo facendo noi, no? Sì. Capire se c'è la possibilità di aprirci alla pista. Dobbiamo valutare un po' di cose. Ora cerchiamo di finire il film e poi di portare questo nostro prodotto da Giffoni, che sono i primi che hanno creduto in noi e che approfitto per ringraziarli di nuovo, e poi vediamo quello che succede, insomma. Okay. Tanto facciamo una cosa bella, poi vediamo dove va. Io penso che se abbiamo per le mani un bel film, anche i nuovi collaboratori se ne accorgeranno, no? Sì. Senti, in chiusura, ci lasci i riferimenti online? Sì, certamente. Abbiamo una pagina, La notte non fa più paura, Terremotati. La pagina si chiama Terremotati. Abbiamo un sito internet in allestimento e poi abbiamo la piattaforma The Rev, a cui potete dare una mano, ci potete sostenere, potete fare qualsiasi tipo di versamento, qualora lo vogliate, per sostenerci e per aiutarci. Noi abbiamo strutturato dei premi per questo, a seconda dell'aiuto che ci viene dato. Poi niente, ci tenevo a ringraziare anche voi di Onda Rossa che ci avete dato una mano dandoci questo spazio. Speriamo che possiate vedere presto questo film, così poi magari ne riparliamo insieme. Benissimo. Allora io, Marco, t'abbraccio e ci sentiamo magari quando si sono sviluppate le cose. Certo, La notte non fa più paura, Terremotati. Benissimo. Seguiteci e grazie. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao. Bene, questo era Marco Cassini, regista del film Terremotati. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento settimanale con il cinema Visionari. Siamo andati un po' oltre, abbiamo cominciato anche un po' prima, per cui avevamo però tra l'altro 10 ospiti, quindi il tempo era necessario. E per tutti i riferimenti vi lascio alla scaletta che trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook, e lì trovate Intanto i risultati che presto metteremo definitivi sulle cinquine dell'anno cinematografico 2014 realizzate insieme ai nostri amici e colleghi, eravamo 15 per queste due puntate sulle cinquine, e poi le uscite in sala di oggi giovedì 8 gennaio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo, il link per ascoltare la puntata precedente e i riferimenti. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, ma anche in streaming sempre dal sito della radio. Sull'home page c'è l'opzione ascolta la diretta. È tutto. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, buon proseguimento.